YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16:04 minuti e 22 secondi a Radio 24. Inizia il nostro appuntamento in diretta come ogni sabato con RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. Due ore insieme per parlare di spettacoli nella prima ora e parleremo molto di musica, parleremo come sempre di serie TV e parleremo anche di teatro questa volta in maniera un po' particolare perché sono particolari giorni che stiamo vivendo, ma seguiteci perché avremo degli ospiti davvero deliziosi, ve lo posso assicurare. Nella seconda ora, come sempre, l'attualità della rete e dalla rete, l'attualità passa tantissimo, più che mai in questo periodo, attraverso la rete. Abbiamo tanti argomenti di cui parlare in questo sabato 25 aprile, buon 25 aprile a tutti. Gli sms e i whatsapp al 349-238-6666, come sempre. Se invece volete contattare me sui miei social, chiocciola Marta Cagnola, sia su Twitter che su Instagram. Allora, io partirei con il primo ospite, parliamo di musica e lo introduciamo con il suo ultimo singolo. E maleducato non sono mai stato, è un certificato per ogni primato. E maleducato non sono mai stato, è un avvocato per ogni reato. Mi manca il concerto del 15 agosto, la paura del letto, del mostro nascosto. Credo trappa le fiabe, ma me ne sbatto. Sarà che in una finale non sono mai stato, non so come sia perdere, non ho mai giocato. Giuro non sono mai stato, è maleducato, non sono mai stato. Quello che abbiamo sentito è un pezzo adorabile di un ragazzo che dice di non essere maleducato e infatti ha colpito tutti per la sua educazione, per la sua grazia, ma anche per quanto è bravo. Lo so, un sacco di complimenti, ma vengono spontanei quando si parla di Leo Gassman. Benvenuto Leo. Grazie, grazie mille, un piacere parlare con te e di essere ospite con voi. Allora, Leo, facciamo subito un passo indietro. Tu sei stato uno dei due vincitori dell'ultimo Sanremo della Vita Normale. Mm-hmm. Che cosa è successo nella tua vita in questi due mesi? Perché a noi sono successe un sacco di cose, però immagino che per te sia stato ancora più amplificato dopo aver vissuto quell'avventura pazzesca. Beh, io in realtà subito appena ho finito Sanremo sono tornato alla vita normale, sono tornato all'università e niente, ho iniziato a studiare forte perché ho degli esami da perseguire e poi sono tornato ad abbracciare gli amici, le cose, giusto il tempo per poi dopo chiudermi di nuovo in casa, però devo dire che comunque questa quarantena mi sta servendo a scrivere, a concentrarmi, a trovare nuovi contenuti. Sono curiosa dell'università, cosa studi? Studio arte, comunicazione e psicologia in inglese in un'università americana a Roma e in questo periodo sto studiando dal computer. E riesci comunque a dare gli esami? Sì, ah, certo. Bene. Allora, quindi questo non è tempo perso. Allora, alla fine riesci a investire il tempo. Maleducato, è uscito il tuo quarto singolo che racconta molto di te. Io quando ho letto il titolo nella tracklist ho detto sta a vedere che Leo Gassman ci confessa un suo lato oscuro, quello che in realtà è un maleducato. No, non è così. Alla fine sei un... Cioè, alla fine, forse è un periodo in cui c'è un po' la rivincita anche delle persone corrette, delle persone brave, o ce lo auguriamo perlomeno. Beh, assolutamente sì. Io in realtà non è una cosa che faccio, sono fatto proprio così. Però ho sempre sognato di poter portare il buon esempio e di poter essere, diciamo, un punto di riferimento per le nuove generazioni che comunque crescono in un pianeta pieno di problemi e quindi c'è bisogno di un po' di colore, assolutamente bisogno di un po' di colore appunto in questa, in questo momento storico. A proposito di colore, la copertina del singolo è molto colorata, però c'è anche una citazione. Sì, è una citazione, sì, diciamo, d'immagine dei Blur che ho cercato di riprendere un po' anche perché volevo mostrare anche il lato, nel senso che comunque in questo periodo sto studiando molto la musica, sto riguardando molti video musicali, sto andando a fondo, diciamo, negli anni 80 e 90. E quindi mi è venuto in mente di poterla riproporre in una chiave più moderna e fare una sorta di contributo, diciamo. E il video? Perché in questo periodo girare i video non è che proprio sia la cosa più semplice del mondo. Diciamo che il video abbiamo avuto l'idea con il gruppo di poterlo fare di nuovo da casa e quindi ognuno di noi ha registrato la sua parte e poi ci siamo fatti un video, io mi sono messo al computer e ho deciso di creare questo video un po' più dinamico e divertente per cercare di intrattenere la gente a casa, ecco. Ma ce l'hai un lato oscuro, Leo? Cioè, non puoi essere così bravo, così carino, così preciso. C'è tu No, che no, ogni ma. tanto t'arrabbi, fai casino in casa, Ma sì, ma litighi. certo. Sai, avere dei difetti fa parte di tutti, nel senso che è normale che sia così, altrimenti non saremmo felici perché comunque la vita è anche un percorso dove devi migliorare un giorno per poter crescere, se no sarebbe noiosa. No, comunque sì, sicuramente ho dei difetti ai quali lavoro tutti i giorni. Che cerco di migliorare. Cerchi di migliorare, no, perché io lavoro sui miei difetti migliorando anche i difetti, perché anche dei difetti bisogna andare un po' orgogliosi. Assolutamente, a volte possono essere trasformate in delle vere e proprie armi. Un po' di impegni ovviamente sono rimasti sospesi. Cosa sogni di fare dal punto di vista della carriera appena si potranno aprire le porte? Non so, dei live, che cosa ti aspetta di là dalla porta? Ma sicuramente, come dici tu, live, nel senso che io appena finisce questo periodo, la prima cosa che voglio fare è andare a suonare in giro e poter portare la mia musica ovunque mi sia concesso di farlo. Non mi importa di suonare in un posto da 5 persone o da 600 persone, l'importante è che suono con la band e che porto la musica e che faccio stare bene il maggior numero di persone con la mia musica che si rispecchia in quello che faccio, in quello che vivo. E poi sicuramente lavorerò al prossimo album, comunque questo è un periodo nel quale non voglio fermarmi, ho voglia di creare, di tirare fuori, di regalare emozioni, quindi sicuramente questo periodo di quarantena ci rallenta, ma non ci ferma. Bello, ci rallenta ma non ci ferma. Prendiamo la rincorsa, no? Facciamo qualche passo indietro così poi corriamo più velocemente. Ti faccio una domanda proprio curiosa mia. Sento della musica, c'è qualcuno che sta ascoltando musica? Si ascolta musica buona in casa? Ma no, guarda, questo qua in realtà è il vicino che suona sempre tutti i giorni e Ma che fischia. fantastico! Sì, è forte, sì, assolutamente. Infatti, a volte mi metto ad ascoltarlo. Bello, bello, bello, sono contenta. Anch'io strazio i miei vicini, ma fa niente. Io non sono Sì. ancora tanto brava, però si devono accontentare. Leo, ti faccio un in bocca al lupo enorme Lupo, grazie mille. perché è stata una vittoria meritata. Il disco è bello, sei un bravo ragazzo, finalmente l'inno di chi non è maleducato. E credo che sia molto trasgressivo questo non essere maleducato adesso, perché nella musica è facile essere un po' maleducati, invece essere bravi ragazzi è una sfida. Un Grazie mille abbraccio davvero, grande, Leo, grazie, grazie. grazie Ciao, a mille, presto. ciao, ciao, Grazie, anche a te, ciao, grazie di ciao. tutto, grazie, Solo tu sai quanto fa male sentire persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi. Svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore. Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori. Ma una cosa è certa, non gli importa dei tuoi errori. E crollare fa male, ma ritorna a sognare che un artista è un bambino che non vuole mollare. Non bisogna affogare in ciò che non sai fare, che va bene così. Vai bene così era la canzone con cui Leo Gassman ha vinto il Sanremo Giovani del 2020. Sembra una vita fa, un ragazzo saggio. Io sono per la rivincita degli educati, ma l'educato invece è il suo ultimo singolo. Adesso una breve pausa per la viabilità e poi saremo pronti per parlare di serie TV. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi, Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Radio Tube Social Village. Un appuntamento settimanale del nostro RadioTube, quello con le serie TV. Io non vedevo l'ora che uscisse la seconda stagione di questa serie e mi sono fatta una maratona ieri per vedermi tutte le puntate. La serie è questa. Se guardi questo video è perché non ci sono più. Ma non tormentarti, non ossessionarti. Vai avanti. Allora come sta? Una buona giornata è quando non vado in giro con la voglia di sparare al primo che passa e poi puntare la pistola su me stesso. Male, quindi. Ho pensato di lasciarti delle istruzioni per la vita senza di me. Sei adorabile, anche se non sai vivere da solo. Fai attività. Sono tutti d'accordo che non faccia bene essere obesi, pigri, lamentosi e apatici. Pedofilo! Eh? Pedofilo! Non sono un pedofilo, ma se lo fossi tu saresti al sicuro, grassone lentiginoso. So quanto ti arrabbi quando le cose non vanno come vuoi, ma hai un cuore buono. Non puoi nasconderlo, sei un bravo uomo. Lei è Sandy. Spetta a te fare gli onori di casa. L'umanità è una piaga. Siamo disgustosi, parassiti. Il mondo sarebbe migliore senza di noi. È questo che intendevi? No. Could you wait a year or two? Afterlife, una serie di Netflix amatissima, è stata rilasciata, è uscita, è stata pubblicata ieri la seconda stagione. chissà come, qual è l'espressione corretta per quella che appunto in inglese si chiama release. La seconda stagione sta pubblicata ieri, da ieri online, ecco, su Netflix. Una serie che a me piace tantissimo, anche se parla di un tema molto molto delicato. Ne parliamo con uno dei più cari amici di RadioTube, Diego Castelli. Ciao Diego! Ciao, buongiorno a tutti. Allora, caro Diego, un argomento delicatissimo, perché afterlife significa dopo la vita, è una serie che parla di morte, che parla di mancanza, che parla di lutto. È una serie amatissima con un tema arduo. Un po' particolare, sì. Molto particolare. Tu cosa pensi di questa afterlife? Allora, a me piace moltissimo, quindi la straconsiglio assolutamente. E tu dici, è una serie che parla di morte, vero, perché insomma al centro della faccenda c'è un protagonista maschile interpretato da Ricky Gervais che perde la moglie. Allo stesso tempo però è anche una serie sulla vita, perché in realtà afterlife secondo me in questo senso ha un doppio significato, perché afterlife vuol dire in inglese è l'aldilà, quindi però non è una serie che parla dell'aldilà, è una serie che parla del dopo la vita, in questo caso dopo la vita della moglie cosa ne rimane della sua. Perché lui, il marito, ha da subito, diciamo, delle tendenze suicide, perché la sua vita, come in questa seconda stagione apprendiamo bene, è sostanzialmente una vita senza niente, cioè non è che ha avuto grandi successi lui nella sua vita, se non, come lui stesso riconosce, trovarsi questa donna, questa moglie che era meravigliosa, esageratamente migliore di lui, che gli ha fatto il dono di stare con lui finché ha potuto. E quindi lui deve in qualche modo reimparare a vivere. Ed è molto bella perché, da una parte, perché c'è la comicità di Ricky Gervais, che è anche molto sarcastica, molto cinica. Lui è un uomo che non ha più interesse a affrontare le persone che ha intorno con gentilezza. Lui dice tutto quello che pensa ormai, no? Perché che gliene frega lui? E facendo così mette in campo la comicità appunto sarcastica, molto dissacrante di Ricky Gervais, però allo stesso tempo c'è poi l'elemento che è un uomo che rischia di suicidarsi, ma allo stesso tempo si aggrappa qui e là a tutto quello che trova per cercare di venirne fuori. E quindi c'è questa specie di doppio tono tra la commedia, poi lui è circondato da personaggi molto molto buffi, però tra la commedia e anche il dramma di tutte le volte che lui si ricorda. Le puntate iniziano e finiscono tutte con lui che riguarda un video della moglie che non c'è più. È una cosa che fa un po' impressione a sentire raccontare la trama, perché è davvero da vedere, perché è allo stesso tempo triste, ma fa anche sorridere, fa anche ridere, fa riflettere, e la comicità, lo spirito di Ricky Gervais è quello che permea questa serie. Lui non è famosissimo come nome in Italia, la faccia la conosciamo tutti, se lo cercate capite subito chi è. Lui è un personaggio importantissimo. Sì, sì, lui è stato, vabbè, è nato, diciamo, come creatore di The Office, quello inglese originale, però lui appunto è normalmente un comico molto, anche molto greve. Se guardate i suoi spettacoli che ci sono anche su Netflix, per esempio, o se ascoltate le sue presentazioni dei Golden Globe, che sono una delle cose che è arrivata più facilmente in Italia, è uno che prende in giro sempre tutti con una veemenza anche molto forte, cioè è quel tipo di comico lì. E quindi per molti vederlo in una serie dove invece, ma banalmente si commuove spesso, cioè dico una banalità, ma si commuove spesso, è strano, perché ci ritroviamo dentro la sua comicità, che spesso è una comicità bella, perché prende le cose un po' più sciocche che facciamo nella vita di tutti i giorni e le ribalta completamente, ti fa vedere quanto siamo stupidi a farle, però affiancata a un elemento di malinconia, di affetto, di una cosa molto molto personale, che forse non pensavamo nemmeno che avesse nelle sue corde come autore, e invece ce l'ha. Quindi è una cosa che ci ha molto stupito e che ci piace, e che ci permette di affrontare la serie con grande, è in qualche modo molto consolatoria, secondo me, perché non è né stucchevole né eccessiva in niente. Te la vedi e in qualche modo alla fine sei un pochino più contento, perché ti sembra di aver imparato qualcosina un po' di te stesso, della vita che c'è intorno, senza per questo che ti voglia insegnare niente della vita, ecco. E questo non fa la morale a niente, a nessuno, secondo me, a parte che uno deve fare proprio la comicità più schietta. Sono d'accordo con te, però non fa la morale a nessuno, cioè è il percorso di una persona che può essere diverso dal percorso di un'altra, ma senza giudizi e senza... questo secondo me è molto bello. Mi piacciono le storie di imperfetti in generale. Diego, però ti sfido. Ci sono delle, nelle varie piattaforme, delle storie godibili, interessanti, avvincenti, che parlino di morte? Ma ce n'è più d'una, perché è un tema che le serie TV hanno affrontato più volte. Guarda, se dobbiamo dire quella più famosa di tutte, che è un po', se non l'avete vista, la dovete recuperare assolutamente, è sicuramente Six Feet Under. Certo. Che serie di HBO, che ormai ha quasi 20 anni, perché parliamo di una serie del 2001, che in questo momento, se non sbaglio, mi sto improvvisamente sentendo molto vecchia. Esatto, che se non sbaglio adesso trovate tipo su Now TV e anche su Chili, credo sia. E praticamente sono 5 stagioni ed è una delle prime serie di HBO, quando HBO stava cominciando a diventare la rete un po' delle serie di qualità a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, e racconta di una famiglia di becchini, hanno un'impresa di pompe funebri, muore il capofamiglia, casualmente, e i figli devono portare avanti la storia. Ci sono 5 stagioni in cui ogni episodio muore qualcuno nei modi più vari, e loro si devono occupare del funerale. E quindi il tema della morte è centralissimo, cioè sempre e comunque, ma viene usato non solo per introdurre poi le loro dinamiche familiari, ma anche proprio per fare uno studio di volta in volta, filosofico, religioso, come volete, sul tema della morte, per cui le tante morti che accadono poi possono anche settare il tono della puntata, per cui magari c'è una morte un po' buffa di una persona che, o magari che una persona che tra virgolette se lo meritava, e la puntata improvvisamente è più comica, più frizzante, e altre puntate invece dove ci sono morti effettivamente più drammatiche o più commoventi, in cui la puntata diventa uno strumento per riflettere ancora una volta sulla vita, ed è una serie molto bella, e anche, tra l'altro, non diciamo come, ma è una delle serie che ha uno dei finali più belli della storia delle serie TV. Cioè, allora non possiamo dire niente. Se voi guardate queste 5 stagioni, l'ultimo episodio vi devasta completamente. È una roba abbastanza clamorosa. Sai a me cosa piace tantissimo? Mi piace moltissimo su Netflix The Good Place. Rispondi una porta aperta. Oh, piace anche a te The Good Place. È di brutto. In questo, chi lo guarda su Netflix deve ancora vedere l'ultima stagione, che non è ancora stata caricata, la 4ª stagione, che comunque è, secondo me, praticamente perfetta. E The Good Place parla proprio invece del dopo. Il Good Place del titolo è il paradiso, o quello che dovrebbe essere il paradiso. Facciamo quel minimo spoiler, che tanto si scopre relativamente in fretta. Ci sono dei protagonisti, tra cui Kristen Bell, che aveva fatto Veronica Mars, che muoiono, finiscono in quello che dovrebbe essere il paradiso, ma qualcosa non torna. Questo paradiso non è esattamente come loro pensavano che sarebbe stato, e da lì parte una storia enorme in cui sono coinvolti anche quelli che il paradiso lo dovrebbero costruire, e in cui ogni 3 puntate si ribalta tutto. Gli autori ci mettono una creatività eccezionale, poi ovviamente col fatto di essere ambientato in un al di là può succedere di tutto anche da un punto di vista proprio pratico, no? Quindi creature strane, magie, ce n'è di ogni, e però è anche una storia di amicizia, di amore, di determinazione nel tentativo di trovare la propria strada e soprattutto di poter cambiare quelli che erano i difetti che loro avevano in vita. Ed è una serie super super divertente, super carina, si vuole bene a tutti i personaggi, nessuno escludo, e quando arriva la 4ª stagione, anche in questo caso secondo me si arriva, cioè è una serie che non cala mai, cioè sono 4 stagioni pulite, che poi hanno chiuso perché sapevano che altrimenti avrebbero allungato il brodo, e quindi invece non l'hanno fatto. Secondo me può esserci un vaghissimo calo un po' tra la seconda e la terza, ma stiamo parlando veramente di poca roba, perché per il resto è divertentissima, e ogni puntata sembra di vederne 5, perché tanta roba che ci mettono dentro proprio in termini di creatività pura e di sorprese, twist dappertutto, quindi insomma consigliatissimo. In breve, un ultimo consiglio su questo tema un po' incredibile che abbiamo tirato fuori questa puntata? Va bene, allora cito The Leftovers, che è altra serie di HBO scritta da Edoardo Lavezzari, che gode su Leftovers, ok, Lavezzari in regia è un fan, ok. Che è un tema, in realtà il tema della morte è trattato in maniera, tra virgolette, indiretta, perché è una serie che, sempre di HBO, che praticamente racconta di, a un certo momento, in un giorno di ottobre, il 2% della popolazione mondiale sparisce nel nulla, quindi parliamo di 140 milioni di persone più o meno. Sparisce nel nulla, e la serie è ambientata 3 anni dopo, in una cittadina, in cui si racconta cosa è successo dopo. Voi immaginate 140 milioni di persone che spariscono proprio niente, ma nell'aria, cioè ha già avuto uno, lo vedeva e sparisce. Quindi non sappiamo in realtà, per buona parte della serie, cosa è successo loro, ma le persone che rimangono, che sono i leftovers vuol dire appunto quelli che rimangono, anche gli avanzi, e la serie racconta di loro, cioè di cosa succede alle persone che si sono viste sparire dal nulla i propri cari. Poi c'è chi non ha perso nessuno, chi ha perso tutta la famiglia, e quindi il tema della morte rientra in termini più che altro proprio di lutto, cioè di elaborazione di una scomparsa che non ha senso, mentre la morte... la morte per malattia, la morte per incidente, la morte per criminalità, sono tutte cose che noi come società abbiamo più o meno imparato a elaborare, quindi sappiamo cosa dire a una persona che perde una persona cara così, non sappiamo cosa dire a una persona che ne perde una nel nulla, e quindi la serie esplora anche cosa significa dover reagire a un lutto, sempre tra virgolette, completamente irragionevole, ed è molto interessante per questo, oltre al fatto di essere poi una serie super mistica, super strana, scritta da Damon Lindelof, che aveva già scritto Lost, poi ha scritto Watchmen di recente, insomma un autore di quelli tosti, diciamo. Abbiamo esplorato un terreno mai esplorato, abbiamo parlato delle serie TV sulla morte, però sono tutte avvincenti, spesso divertenti, è una sfida, andatevele a cercare, perché questi consigli di Diego sono veramente consigli formidabili. Grazie per essere stato con noi, ti aspetto prestissimo, spero di persona, Diego Castelli. Grazie Diego, grazie, un abbraccio grande, ci vedremo, mi manchi tanto, ciao Diego. Ciao, una breve pausa e poi musica. Radio Tube Social Village. La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. La realtà è tutta l'illusione, è di chitarre che suonano da sole, nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. Questo amore non può essere virtuale, ha bisogno di parole sussurrate. Tutti noi ci troviamo davanti a una strana realtà, ormai l'abbiamo detto mille volte, c'è chi la subisce, c'è chi ne approfitta per scoprire qualcosa di nuovo, c'è chi ne scrive, chi la fa diventare musica, ma la realtà non può essere questa, è quello che ci dice Edoardo Bennato. Benvenuto Edoardo. Bentrovati, ciao a tutti. Allora, intanto lo possiamo dire, noi due siamo collegati in video, quindi ho l'opportunità di vedere quanto sei in forma, ma come fai? Gioco a calcio, non ho mai fumato in vita mia e per una serie di circostanze non mi piacciono le bevande alcoliche. Già queste tre ottime ricette. Ho una figlia di 14 anni da accudire, e quindi mi interessa il presente e l'immediato futuro. Questa è una ballata che abbiamo scritto recentemente, perché avevo una ballata all'inizio, me le faccio in finta inglese. All'inizio questa qui era: When you got a movie, when you have a town, when you have a sway, when you're running a crown, when you have a shadow, when you have a lamb. When you're on the way, on a ride again, un po' dilaniana, benatiana. E l'ho mandata a mio fratello Eugenio, che sta dall'altra parte della città, dall'altra parte della collina, sempre anche lui chiuso in casa, e a lui gli è venuta l'idea di scrivere questo testo sulla realtà che ci circonda, su una realtà in questo momento così cupa, una realtà che non spero che cambi in meglio per tutti quanti noi. Del resto siamo noi che la possiamo cambiare. A suo tempo avevo scritto un'altra ballata che ha le stesse caratteristiche armoniche, con l'armonica, e cioè L'isola che non c'è. L'isola che non c'è, però comunque sottintende anche una sorta di rassegnazione nei confronti di un'isola irraggiungibile, l'utopia, cioè un sogno irrealizzabile, e quindi anche un comodo alibi per tutti quanti noi. Non c'è, quindi non possiamo raggiungerla. Stavolta invece mio fratello è partito da un presupposto proprio diametralmente opposto, cioè che la realtà che viviamo dobbiamo cambiarla, in meglio, assolutamente. Quindi la realtà non può essere questa. Com'è il feeling artistico tra te e Eugenio? Perché siete diversi, però siete complementari. Diciamo che la complementarietà arriva da lontano, dalla prima ora, e dall'inizio della mia attività, che Eugenio mi dà consigli, io do consigli a lui. Lui ha assunto come riferimento la musica folk della Taranta, lui per esempio aveva come riferimento Matteo Salvatore era un folk singer, che un contadino, cioè che comunque faceva musica provocatoria nell'ambito della Taranta, nelle aree rurali della Puglia. Io come riferimento avevo Woody Guthrie, che è come Matteo Salvatore, uno che fa canzoni provocatorie, lo faceva nelle aree del contadine rurali del sud degli Stati Uniti. Insomma, diciamo che quello che ci complementarizza è un tipo di approccio nei confronti della musica. La nostra musica non è leggera, ecco. La musica leggera serve per distarsi, per evadere, per non pensare, per rifuggire dalla realtà. Io e Eugenio da sempre facciamo una musica che ci invita a riflettere, sia ad avere buone vibrazioni, ma a riflettere, in questo frangente, a riflettere sulla situazione attuale, sulla realtà che ci circonda, quali sono i motivi per cui siamo arrivati a questa situazione, a questa impasse, e come fare per modificare la realtà, perché come dice il testo, la realtà non può essere questa. Noi adesso la realtà la vediamo in gran parte attraverso la rete, ne parlate nel vostro pezzo. Non vediamo solo il mondo dalle finestre di casa, ma c'è questa finestra della rete che ci fa vedere il mondo. Sì, la rete a volte può essere una salvezza, però può essere anche una prigione, può essere anche un modo per imbrigliarci tutti nella rete. Quindi, si parte sempre da questo presupposto, che la tecnologia deve essere utilizzata in modo appropriato, cioè la tecnologia deve essere utilizzata e quindi deve essere al servizio dell'uomo e non viceversa, non l'uomo al servizio della tecnologia. Quindi anche la rete va utilizzata in un certo modo, e qui si parla della rete che a volte può essere una prigione per tutti quanti noi. In questo periodo ci sono stati, soprattutto all'inizio della quarantena, i balconi. Vorrei sapere cosa pensi, cosa hai pensato di quel modo di vivere la musica, di usarla per stare insieme. Infatti qui il testo dice la realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione. Il balcone ormai è diventato il passaggio dalle stanze, dal chiuso della casa all'esterno, e quindi è uno sfogo il balcone. Parliamo di Napoli, perché questa canzone è nata a Napoli, lo dicevamo, ma torna a Napoli perché avete deciso di devolvere tutti i proventi in beneficenza. Sì, all'ospedale Cotugno delle malattie infettive, all'ospedale Monaldi dei Colli qui di Napoli, perché comunque è giusto che noi che comunque siamo dei privilegiati in questo momento diamo anche una mano a chi è in difficoltà, in grave difficoltà. Ti ripeto, al di là della retorica, al di là dei finti buoni sentimenti, la musica da sempre è un modo per dare buone vibrazioni e aiuto agli altri. Allora, parliamo del tour, perché in questo periodo il mondo dello spettacolo sta cercando di far capire che è un'industria vera, che è un momento difficile. per tutti coloro soprattutto che lavorano accanto, attorno agli artisti? Vabbè, è chiaro che in questo momento ci sono delle priorità e questo viene ripetuto, viene ribadito costantemente dagli addetti ai lavori e dalle istituzioni, dai politici e dai politicanti. Ci sono delle priorità, in questo momento la sanità è la priorità su tutto e su tutti. D'altra parte, pensiamo anche alla salute mentale. E quindi l'arte, la musica, la cultura fa parte di questo. Cioè, e poi comunque sarebbe auspicabile e importante che dopo questa fase allucinante di tensione di per tutti ci fosse un momento di liberazione in cui ci troviamo insieme e le chitarre suonano all'aperto, perché una frase importante di questa canzone è che le chitarre suonano da sole nel silenzio di nessuna festa. E quindi è auspicabile che in futuro prossimo le chitarre suonino all'aperto per la gente, tra la gente, e non nel chiuso delle case. Io non vedo l'ora, e non vedono l'ora i tuoi fan. Per loro Edoardo Bennato è un monumento. Non è che mi alletti molto di essere un monumento. Preferisco essere un essere umano vulnerabile come tutti quanti gli altri, e con le tensioni di tutti, perché se fossi un monumento non sarei in grado di scrivere canzoni nuove. Diciamo che su quello che sarebbe successo nel mondo tu avevi scritto in anni non sospetti. Sì, ma non è che io sia un veggente. Io mi limito a osservare, a analizzare la situazione, ed è importante che quando analizzi la situazione e assumi i parametri non sei condizionato dalle fazioni politiche, soltanto in quel caso assumi le coordinate giuste, i parametri giusti, se no sei sempre fagocitato dal sistema che comunque ti vuole coinvolgere. Le fazioni politiche hanno sempre cercato di asservire il rock al loro uso e consumo e poi pochi sono riusciti a difendersi da questi attacchi. Bob Dylan, per esempio, i Rolling Stones e tanti altri. L'arte, la musica, la cultura deve essere indipendente, al di sopra delle parti, al di sopra di tutti. E quindi già qualche tempo fa io avevo scritto una canzone, per esempio, come Bravi ragazzi. Una di notte c'è il coprifuoco. E pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. C'è stato un programma alla televisione, hanno parlato tutti gli avvocati, di tutte le bandiere, di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Poi hanno dato severe istruzioni di stare calmi, di stare buoni. Buoni su, buoni ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. È una canzonaccia provocatoria, cattiva, che fa parte dell'album I buoni e i cattivi del 1974, in cui io ironizzavo su questa classificazione che si fa dei buoni e dei cattivi, in cui non si capisce bene poi chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Qualcuno direbbe no, io lo so, io appartengo alla categoria dei buoni, caro Bennato, non faccio il solito qualunquista, datemi istruzioni, spiegatemi chi sono i buoni e chi sono i cattivi e io collaborerò propositivamente con voi. Ragazzi, che artista, che artista Edoardo Bennato. Artista, sono un provocatore e provoco innanzitutto me stesso, ironizzo su me stesso, sul mio ruolo e su quello pensano che debba essere il mio ruolo. Fortunatamente ho due fratelli che mi aiutano. Uno, Giorgio, si interessa dei fatti così, anche se è bravo a suonare, però lui ha studiato da ragioniere e quindi lui cerca di far quadrare i conti. Perché io invece, sia io che Eugenio, siamo completamente scapestrati da questo punto di vista. Perché Eugenio è il classico, sai, nonostante sia laureato in fisica nucleare, lui è sempre con la testa tra le nuvole. Insomma, ho due fratelli che mi aiutano molto e a volte mi salvano dal naufragio. Dati bene, un segno già dal cognome, possiamo dirlo. Più che nati bene, sì, abbiamo avuto una mamma, una madre che ci ha seguiti fin dall'inizio, capito? Perché poi dipende tutto da questo, dalla fortuna di arrivare, di nascere, di arrivare su questo pianeta e arrivare in una famiglia in cui sei amato, bene accolto, curato, accudito. E noi abbiamo avuto una madre che comunque ci ha seguiti da sempre. Anzi, è lei che si è inventato questo mestiere, perché a un certo punto lei si preoccupava che nei mesi estivi stessimo senza far niente perché le scuole erano chiuse, no? Allora cercò un maestro di lingue, non trovò il maestro di lingue, trovò un maestro di musica, e quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello Gino la fisarmonica, Giorgio le congas, e cominciamo a suonare nei circoli cittadini. Poi un giorno si avvicinò un signore molto distinto, mi disse: siete bravi, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era un armatore, Grimaldi, e quindi noi facciamo questo viaggio in America e cominciai a viaggiare e avevo 12 anni. E quindi da quel momento in poi la musica mi ha dato la possibilità di viaggiare, di incontrare per esempio in Cile Allende, perché suonavamo al Festival di Viña del Mar, di conoscere Fidel Castro, di suonare, di stare in Inghilterra, di andare in Cina, perché vedi, al di là delle nozioni delle aule universitarie, è importante viaggiare, vedere le cose da vicino, se no sei fagocitato e sei condizionato da quello che scrivono gli altri. Grazie davvero Edoardo per questa chiacchierata, un abbraccio. Grazie Edoardo Bennato, abbraccio anche Eugenio, grazie, a presto. Grazie, un abbraccio a tutti quanti, ciao. Radio Tube Social Village. Che begli incontri in questi giorni difficili. Tecnicamente cerchiamo tutti i modi per raggiungere i nostri ospiti. Abbiamo così ogni tanto via Skype, ogni tanto via FaceTime, ogni tanto via Zoom, ogni tanto al telefono. In qualche modo riusciamo a sentire tutti coloro che in questo periodo hanno avuto delle belle idee. L'idea di fare un pezzo con il fratello Eugenio, secondo me è un'idea bellissima di Edoardo Bennato, e ci sono i fan di Edoardo Bennato che ci stanno scrivendo: grande Bennato, 65 anni, sono tua fan da sempre. Maria da Venezia: nel 1977, quando ero in Marina, andai a vedere Bennato per la prima volta in un teatro alla Spezia. Mi ricordo che quando ascoltavamo In fila per tre gli ufficiali ci guardavano male, un grande. Devo dire che effettivamente, ragazzi, io l'ho visto adesso nel collegamento in video, un ragazzino. Allora, ragazzi, qui vi ho promesso che avremmo parlato di teatro. Ma come si fa ad andare a teatro in questo periodo? Intanto io un'idea ce l'avrei, vi faccio sentire uno dei pezzi che mi fanno impazzire proprio in assoluto di più del teatro comico italiano. Lo vuoi chiamare babbo? Allora, all'unisono, a gran voce, facciamo, sì. Mettiamo le mani così a campana. A campana. A campana rovesciata. Al mio tre. 3, 2, 1, 0. Pador! Ancora una volta. Pador! Chi osa interrompere le petit déjeuner di Pador, figlio di Khmer della tribù di Istar, della terra desolata del Pfnik Nelaor? Pedor, l'ultimo saggio dei 7000 saggi, Algal Bidunur Fititanel Zizdin Gilalmes Asnesasudimur Taperganar, Pedor, colui il quale fu intossicato dalle mefitiche capesante di Naples e si salvò miracolosamente con la sacra peretta di As. Il grande Pedor, avvicinatevi. Oh, mucoli! Ma babbo, avvicinatevi! Quello mi sembra il bisnonno di Pedore. È un po' invecchiato. Ma chi osa interrompere il petit déjeuner di Pdor? Benvenuto a Radio Tuba, Giovanni Storti. Ciao Giovanni. È un capolavoro, è un capolavoro. Perché noi questa storia di Pdor la in realtà volevo urlare Pdor, però avevo paura per il microfono. Grandissimo Giovanni Storti. Questo è un pezzettino di Ammutta Muddica, spettacolo di grandissimo successo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma Giovanni, come facciamo a venire a vedervi a teatro? In questi tempi abbiamo pensato anche a quello, cioè mettiamo interamente i nostri spettacoli, in questo momento Ammutta Muddica, sul web, sul nostro sito, e chi vuole può vederselo interamente e godersi. Ecco, visto che non si può andare a teatro. Insomma, è un'idea brillante. La scorsa settimana avete cominciato con The Best Of, il 16 aprile. Adesso c'è appunto online questo Ammutta Muddica, in streaming per una settimana. Poi cosa fate? Ne mettete un altro? Poi mettiamo un altro, poi ci sarà Unplugged, poi ci sarà Perché il Telun, poi ci saranno i corti. Hanno deciso di mettere tutti i nostri spettacoli teatrali, ognuno ogni settimana uno, ecco. Ho letto che all'inizio qualcuno era un po' restio, non è facile pensare di mettere i propri spettacoli in streaming, perché teatro e rete non dico che siano in contraddizione, però il teatro è quella cosa che ti avvicina allo spettatore, si è lì fisicamente nello stesso posto. Proprio infatti, quello che non stato, si può fare adesso. Sì, è stato proprio Pdor, figlio di Khmer, a lamentarsi, ha detto io non voglio andare sul web, io ho bisogno del pubblico di fiamme, invece poi l'abbiamo convinto anche lui, e del resto è un esperimento, però è un regalo che speriamo sia gradito per tutti coloro che ci seguono generalmente, il teatro, ecco, il cinema. Forse anche più di quelli che vi seguono ora, perché ci sono quelli che vi seguivano allora e quelli che negli anni di questi spettacoli teatrali ancora non andavano a teatro o non vi conoscevano, perché sono spettacoli di varie annate. Sì, è vero, abbiamo la fortuna comunque che in genere i genitori mostrano i nostri filmati ai figli, che pur non essendo neanche nati, è il periodo magari in cui sono usciti i corti, o anche Tel Kiel Telun, o anche addirittura Unplugged, però fortunatamente si divertono ancora, un po' insomma come staglio e olio. Noi... Beh, non è poco che vedere magari dei ragazzini che conoscono Pdor o che conoscono tutti quegli sketch pazzeschi, la scuola di polizia, i gemelli, il museo di arte moderna. È curioso vedere ragazzini curioso. Anche molto giovani. Io no, non ero molto giovane, le ho viste tutte a teatro perché ero già grande. Io non faccio sì, test. Quello vuol dire purtroppo. Che noi almeno io Aldo e Giacomo siamo veramente poveri. Però allora io non sono fortissima in matematica, però The Best Of l'avevate fatto nel 2016? 2016 per i nostri 25 anni insieme. Nel 2021 quindi fanno? Nel 2021 fanno 30 anni, sì, quindi, fanno 30 anni. Posto che questo 2020 non è stato tanto favorevole per il teatro. Esatto, ecco. Sì. Un anno da cancellare. È un anno. E quindi per il 2021, ragazzi, cioè l'hai detto tu, l'hai fatto tu il conto. No, beh, l'hai fatto tu. Io te l'ho suggerito. Io l'ho suggerito. Però la premessa era che in matematica non sono tanto forte. Però nel 2021 sarebbero questi 30. Sarebbero questi 30. Sì, quindi il tempo adesso per ragionarci ce l'abbiamo. Giovanni, dimmi. No, le nostre cose nascono proprio dall'interazione fisica, Quindi in generale la lontananza non porta grandi cose. Sì, porta cose personali, tutto quello che vuoi, ma è proprio lo scambio di vedersi in faccia, cazzeggiare, scherzare, prendersi in giro che fa nascere gli sketch. Quindi ognuno da casa sua è un po' difficile. È un po' difficile anche in videoconferenza, in videochiamata, così è un po' difficile. A anno difficilissimo per il teatro, anno difficilissimo per lo spettacolo. Tanti artisti stanno cercando di far capire, e lo dicevamo prima anche con Edoardo Bennato, quanto sia importante far capire quanta gente lavora nello spettacolo, quanta gente lavora nel teatro, quanta gente lavora nei concerti dal vivo, perché non è una banalità, sono dei settori che stanno soffrendo sul serio. Assolutamente, se si pensa che attorno a un film, già sul set vabbè, girano sempre 50-60 persone, ma che ci lavorano attorno a un film con presi segretari, location manager eccetera, un centinaio di persone ci sono sempre, quindi già uno dice vabbè, il film del trio, ma dietro a questo trio ci sono 100 persone. In teatro, quando abbiamo fatto l'ultimo spettacolo con noi, viaggiavano 15 persone fisse, ma poi quelli che lavoravano ancora dietro eravamo almeno una trentina, quindi quello che appare dietro, quello che appare sono tante cose. Hai citato il cinema, diciamo che avete fatto appena in tempo. Sì, diciamo che abbiamo beccato lo strascico purtroppo, però rispetto ad altri siamo stati molto molto fortunati. Perché Odio l'estate era uscito il 30 gennaio, quindi sì, esatto. qualche settimana di programmazione siete riusciti ad averla. Esatto, sì. Poi... Pazzesco perché... Ma adesso lo stanno facendo ancora, solo che non c'è nessuno, però abbiamo chiesto di continuare a mandarlo. Ci hanno detto, ma tanto ce l'avete lì la chiave. Ce l'avete lì, sì. Si sentono dei rumori, se lo si davanti ai cinema si sente un po' di rumore. Il film che va da solo, praticamente. Questa è già l'inizio di una sceneggiatura, il film che va da solo nel cinema. Esatto. Giovanni... Sembra che fosse Paolo Rossi che, credo, che sta inventando una cosa bella, cioè... Al posto di essere la gente che è rimasta chiusa in casa, cioè sono un gruppo di attori, una compagnia che rimane chiusa in teatro e costretta a vivere chiusa in questo teatro e continuare a rappresentare. È una bella idea. Bella idea. Giovanni, allora io ti devo ringraziare tantissimo. Io spero davvero di rivedere presto questo trio fantastico a teatro. Appunto, 2021 abbiamo fatto sto conto, chi lo sa. Ci vuole del tempo, quindi vedremo. Vedremo perché ci vuole del tempo e davvero speriamo che i teatri tornino a vivere, perché ne avremmo tutti tantissimo bisogno. Non si può fare a meno dell'arte del teatro. E c'è bastato questo minuto di deep door per stare subito bene. Ho osato interrompere il petit déjeuner deep door per questa volta. No, anche perché questi sketch io e i miei amici li sapevamo a memoria. Le gare facevamo per sapere tutte le battute. Grazie per essere stato con noi, a Giovanni Storti. Un abbraccio, grazie Giovanni. Ciao. Grazie. E ovviamente un abbraccio a distanza anche a Aldo e a Giacomo. Allora, ve lo ripeto, Ammutta Muddica è in streaming. Andate a recuperare il sito di Aldo, Giovanni e Giacomo. In streaming questa settimana c'è Ammutta Muddica. Ogni 7 giorni viene cambiato lo spettacolo in cartellone, in rete. E quindi ogni settimana c'è uno spettacolo da rivedere di Aldo, Giovanni e Giacomo. Mi sembra un'ottima iniziativa per tenerci compagnia adesso con i teatri, ai noi, chiusi. Si conclude la prima ora di RadioTube. Adesso c'è il giornale radio delle 17. Gigi Donelli è già pronto per il giornale radio. Noi ci ritroviamo dopo per la seconda ora, quella di RadioTube Social Network.